In questo giovedì 19 dicembre i titoli, c'è chi si concentra sulla manovra, la stabilità verso la fiducia e il Sole 24 Ore, per esempio il titolo di prima pagina è alleggerita la web tax, corsa alle microspese. Per il Corriere della Sera invece il titolo molto poco incoraggiante, freno al taglio delle tasse, insomma quello che ci diceva anche ieri il Sole, e cioè i risparmi della spending review serviranno prima a coprire l'altra spesa e poi, se ce n'è ancora, per tagliare il cuneo fiscale. Io nel mio profilo Twitter Alino Milan l'ho messa così, vi spiego il lavoro di Cottarelli, no? Il commissario della spending review, taglia della spesa di qua per coprire della spesa di là. Avvenire, la stabilità è scritta, le famiglie soffrono, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano, giochi, banche, caltagirone, il governo dei larghi favori, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per il Giornale l'apertura è: questi sono pazzi, follia fiscale, più tasse agli artigiani per trovare i soldi degli esodati. Repubblica invece su Lampedusa, schiaffo dell'Unione Europea. La Stampa, legge elettorale, Renzi ad Alfano va fatta con tutti. E il Messaggero, legge sul voto, Renzi accelera. Mentre per Libero, primo sì alle nozze gay. Questo è il titolo di prima pagina. Blitz del PD e dei grillini al Senato, corsia preferenziale per le leggi che introducono i matrimoni omo. Invece per l'Unità, Renzi no al derby sull'articolo 18, mentre il Manifesto parla delle manifestazioni di ieri a Roma, ma non dei forconi, ma ieri è la giornata internazionale per i diritti dei migranti, proprio nel giorno di Lampedusa, le immagini, diritti al centro, questo è il titolo del Manifesto. Ma io voglio parlare, partire da quell'incredibile vicenda che sui giornali e nel giornale radio e su tutte le TV hanno ne hanno parlato, insomma, questo serial killer che è in libera uscita, e in libera uscita non è rientrato in carcere. È possibile? È possibile. Bartolomeo Gagliano, l'uomo che ha 3 omicidi alle spalle, la sua firma, in maniera molto dura, come scrive il Corriere della Sera, uno sparo di pistola in bocca, ha ucciso tanti anni fa una prostituta a Pietrate, ha ucciso poi un transessuale, ha ucciso una terza persona, sparò al volto della fidanzata durante un gioco erotico. Vi rendete conto? Questa persona ha avuto un permesso premio al carcere di Marassi e poi non è più rientrata. Non è più rientrata in carcere. Caccia al serial killer, evaso, impermesso. È un soggetto altamente pericoloso, dicevano la polizia. È libero. È in giro per l'Italia, chissà dove. Ha ucciso 2 donne e un uomo. E la difesa, e la sentite, la vedrete, la potrete leggere in tutti i giornali, del direttore del carcere, Salvatore Mazzeo, direttore del carcere di Marassi. È ancora più incredibile quando le vanno a chiedere spiegazioni, dice: ignoravamo i precedenti, per noi era un rapinatore. E lo trovate sulla Stampa, intervistato da Alessandra Pieracci. È la prassi, il fascicolo in nostro possesso riguarda solo la pena che il detenuto deve scontare qui nel nostro carcere, non sapevamo nulla degli omicidi. Ma possibile che il suo passato fosse sconosciuto? I fatti di 30 anni fa, risponde il direttore del carcere, non sono riportati. Lo stesso provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha concesso i 3 permessi, perché non era la prima volta, i 3 permessi, anche un altro di 2 giorni per il prossimo Natale, fa riferimento a questo fascicolo. Il magistrato valuta il detenuto sulla base dei reati per i quali si trova in carcere. Se Gagliano avesse scontato qui le condanne per gli omicidi, avremmo avuto l'incartamento di allora. E poi sono passati quasi 30 anni, le persone cambiano, devono essere valutate per come sono ora. E anche sul Secolo XIX, il giornale che apre su questo, l'incubo del serial killer è ligure, è fuggito da Marassi a Genova, e quindi comprensibilmente il Secolo XIX, anche per una prossimità geografica, dice, potrebbe essere qui in città, a Genova o in zona. Evaso il mostro di San Valentino, in fuga e armato. C'è anche l'intervista di Alberto Parodi alla persona che ha sequestrato, cioè ha fermato una persona con una pistola e gli ha detto: a un panettiere da Savona a Genova, guida un'ora di terrore con la pistola puntata alla testa. Anche qui il difensore, la difesa del direttore Mazzeo: non sapevamo che era un serial killer. Io più leggo queste interviste e dico: ma com'è possibile? Com'è possibile? E il Corriere della Sera racconta due pagine, le fughe, il pasticcio dell'assassino ritenuto rapinatore. A pagina 19 Francesco Battistini è scappato come era scappato nel 90, nel 91, nel 94, con una pistola, forse una pistola vera, forse giocattolo, recuperata chissà dove, chissà da chi. Proprio come gli capitò con la Smith & Wesson che si era procurato per la prima evasione, quella che non si scorda mai, che al casellario evidentemente qualcuno se l'ha dimenticato, come fece con la Beretta 785 che riuscì a rubare a un vigile di Aversa quando fuggì in pigiama dalla clinica per pazzi criminali. È come un'altra che usò un'altra volta scorrazzando su e giù per la Liguria e fuggito su una macchina rubata, la Panda Verde, modello aggiornato della 128 bianca che usò per esordire nel mondo delle primule rosse, o del Ford Transit che sequestrò assieme ad alcuni studenti per terrorizzare il centro di Savona e sparare sui poliziotti. Insomma, tutti sapevano, e ci sono i titoli del passato, Fantasmi e paure nella grande caccia all'evaso, Riconosciuto il killer di San Valentino, Bartolomeo Gagliano, Il giustiziere malato di AIDS, insomma tutti sapevano, eppure le istituzioni non sapevano nulla, o sapevano poco, tanto è vero che è stato lasciato libero e ora è in fuga. Cari italiani, allora vi voglio raccontare due storie che provengono dalle regioni. La prima ha qualcosa dell'incredibile. Ne abbiamo già discusso alle 6.30 con Mario Dinolfi e Vincino, dicendo: questa storia, ahi noi, farà il giro del mondo. Il giro del mondo la ritroveremo su tutti i giornali, cari italiani, perché è un qualcosa che supera anche quelle che sono i luoghi comuni, i racconti anche di tanti film, magari anni 70, anni 80, perché questa è la realtà applicata alla regione Abruzzo. Prima pagina di Repubblica, sentite bene, l'assessore assume la segretaria e nel contratto c'è l'obbligo di sesso. Vi rendete conto? Giuseppe Caporale, c'era un contratto sessuale in vigore negli uffici della regione Abruzzo, lo aveva redatto e sottoscritto l'assessore regionale alla cultura, Luigi De Fanis. In quel documento, nero su bianco, il politico del PDL, 53 anni, medico, pretendeva sesso dalla sua segretaria. Pagina 22. Farai sesso con me una volta a settimana. La donna per contratto, una scrittura privata ovviamente, doveva stare insieme all'assessore, è scritto testualmente nel documento ritrovato in pezzi nel cestino ma ricomposto dalla guardia di finanza a casa della donna, almeno 4 volte al mese per fare l'amore. Così è riportato nell'accordo in vigore da mesi. Tutto avveniva in cambio di denaro, 36.000 euro all'anno. E qui aggiungo, non voglio sapere dove e come e di chi erano questi soldi. Lei, 32 anni, giovane avvenente componente dello staff di De Fanis, che già aveva ottenuto da lui l'incarico di componente della sua segreteria particolare a 1.200 euro al mese, aveva firmato questo documento e ne teneva una copia in casa, trovata dal Corpo Forestale dello Stato, che ha notato foglietti strappati, buttati nel cestino durante una perquisizione e in alcune settimane ha rimesso insieme i pezzi, valutando con attenzione il contenuto di quella prova e il suo significato. Una scoperta sorprendente, conferma poi arrivata dalla stessa segretaria che dice l'assessore era ossessionato da me, mi ha costretto a firmare, non ho potuto rifiutare, ho avuto paura. Questa è la sua spiegazione. Voglio uscire da questa storia, sono additata da tutti come quella lì e non ho fatto nulla, però non ho preso un centesimo delle tangenti di cui è accusato l'assessore e non so cosa sia successo. Mi propose un lavoro l'assessore, non ho mai partecipato alle sue campagne elettorali, addirittura io ho la tessera del PD, mentre il politico è del PDL, ma lui mi diceva vai a timbrare, esci, vai a farti bella. E in regione, racconta questa signora, sentite un po', è una consuetudine timbrare e uscire per faccende personali. Ma sì, è una consuetudine alla regione Abruzzo, almeno secondo questa testimonianza. Farai sesso con me una volta a settimana, l'accordo scritto con la segretaria, questa storia, ahi noi, farà il giro del mondo, ovviamente accreditando l'immagine proprio degli italiani. molto molto come dire, fedeli alle istituzioni, come, come raccontare per esempio quello che sul Messaggero a pagina 9 racconta Renato Pezzini, il Messaggero, i porceddu rimborsati coi soldi della regione, siamo alla regione Sardegna, coerenti con lo spirito del convegno, gli organizzatori di un simposio sulla lotta all'obesità, svoltosi nel 2011 in Sardegna, offrirono ai partecipanti un lauto pranzo a base di maialini arrosto. Il primo problema è che i maialini vennero pagati dal gruppo regionale del PDL, il secondo problema è che vennero acquistati presso l'azienda agricola del consigliere regionale Sisi Piras. Il terzo problema è che il convegno fu allestito in una palestra di Villa Cidro, di cui è titolare la moglie di Piras. Il quarto problema è che Piras ieri è finito in carcere. L'inchiesta sull'utilizzo spensierato dei fondi destinati all'attività politica dei partiti sta facendo precipitare nel caos la Sardegna. Piras vengono contestati, scrive il Messaggero, 40.000 euro di spese immotivate, oltre a convegni a casa della moglie. C'è una ricevuta da 7.000 euro per un pranzo in un celebre ristorante del Campidano spacciato per convegno politico. E insomma, una vicenda che sta coinvolgendo anche la candidata renziana del PD, Francesca Barracciu, un caso che crea imbarazzo nel partito perché renziana doc, vincitrice delle primarie del centro-sinistra, candidata alla presidenza della regione, anche lei finita indagata, tanto che racconta al Messaggero, si dice che gli uomini di Renzi stiano provando a convincerla a rinunciare. L'ennesima vicenda delle regioni, voilà, andiamo in pubblicità e rientriamo dalle altre notizie. 24 mattino. Siamo qui alle 7.33 minuti ancora a leggere i giornali. Allora, come vi ho preannunciato, alle 8.15 avremo il ministro Kyenge ospite. Parleremo certamente, partiremo dalla vicenda di Lampedusa. Le immagini diffuse da TG2 ieri hanno fatto anche queste purtroppo il giro del mondo, soprattutto dell'Europa, un'Europa molto arrabbiata per come sono trattati, almeno in questa disinfezione o disinfestazione, come si può dire, insomma, lo spruzzare del disinfettante in maniera brutale, almeno da quanto si vede nelle immagini, a degli uomini nudi al centro di identificazione ed espulsione di Lampedusa. Repubblica apre su questo: schiaffo dell'Unione Europea, l'Europa dopo il video shock minaccia, questo è un orrore, vi togliamo gli aiuti. Il Corriere della Sera con Giusy Fasano a pagina 21, inviata a Lampedusa, gli immigrati del centro vi chiedono: e se toccasse a voi? Dopo i barconi, l'umiliazione, perché lo fate? Madame, a voi piacerebbe essere trattati così? Così mi accoglie uno del centro di Lampedusa. Ecco, a noi basta solo che si capisca questo. Habtai viene dall'Eritrea, è arrivato a Lampedusa inizio settimana, dice che lui non era tra i migranti nudi per la disinfezione, ma al centro, racconta, non si parla d'altro. E i 391 ospiti che affollano le camerate sono tutti con Khalid, che è il ragazzo siriano che ha ripreso le immagini col telefonino. Ce ne sarebbero altre cose da dire, sospira Khalid, che racconta il Corriere, ora teme rappresaglie, il ragazzo che ha filmato e poi ha dato all'inviato del TG2 le immagini. Ora teme rappresaglie, ha raccontato all'inviato del TG2 Valerio Cataldi di essere stato tenuto chiuso nel posto di polizia del centro per un paio d'ore dopo la messa in onda del video. Non ho fatto male a nessuno, ho solo fatto vedere quel che succede, che tutti devono sapere, ho agito per il bene di tutti, di cosa dovrei avere paura, dice ora Khalid. Certo, le immagini sono state molto molto dure, e tra l'altro il quotidiano Repubblica ora raccoglie anche le testimonianze di alcuni degli operatori che, in maniera anonima, dicendo sapete Lampedusa è una isola piccola, raccontano a Francesco Viviano ora la vergogna, che vergogna, dovevamo porci il mea culpa degli spruzzatori, così vengono definiti, cioè coloro che hanno spruzzato, che vergogna, non dovevamo farlo, avremmo dovuto rifiutarci, non dovevo attuare quella procedura disinfettando gli extracomunitari con la scabbia, erano tutti nudi e noi gli sparavamo addosso acqua fredda con uno spruzzino collegato a un compressore. Ma io sono un dipendente, mantengo la mia famiglia con quel lavoro e che dovevo fare? Ho eseguito un ordine. E poi lì con me c'erano altre persone, alcuni anche con il camice bianco. Racconta, non posso farmi vedere mentre parlo con un giornalista, Lampedusa è piccola, rischiamo di essere licenziati, indagati dalla magistratura per colpe non nostre, noi non li abbiamo maltrattati, sono anni che li aiutiamo e nessuno si è mai lamentato. Ma certo ora c'è questo paragone con i lager, addirittura un paragone per me esagerato, certamente esagerato, però chiaramente il paragone è lì sotto gli occhi di tutti. Anche Repubblica racconta che questo Khalid, che ha fotografato, ha filmato tutto, è un avvocato in Siria, è autore della denuncia ed è sotto protezione, oggi sarà anche trasferito. Tra l'altro Repubblica pagina 4 racconta il business, l'affare di questa, di queste cooperative che gestiscono i centri. Più ne arrivano, più guadagnano, il business da 2 milioni al giorno consumato sulla pelle dei migranti. Più ne stipano in una camerata, meglio è. Più a lungo restano, meglio è. Se sono minorenni, ancora meglio. Lo Stato paga di più. Così inizia l'articolo di Alessandra Ziniti. Ad ogni barcone che arriva, i professionisti dell'accoglienza mettono mano alla calcolatrice e le cifre hanno sempre molti zeri. Più di 1.800.000 euro al giorno, tanto nel 2013 ha speso l'Italia per garantire accoglienza a 40.244 migranti sparsi sulle nostre coste. Un letto, i pasti, il vestiario, i farmaci, un minimo di pocket money, 45 euro al giorno è la spesa media per ogni immigrato che mette piede in uno dei 27 centri di accoglienza. Una cifra che aumenta fino a 70 euro se si tratta di minori, in considerazione della particolare assistenza che dovrebbe essere loro garantita. Questa è la torta luculliana che si dividono le cooperative che gestiscono, sono dalla Lega Coop, le imprese di Comunione e Liberazione, le aziende vicine alla Lega, le multinazionali, le gare bandite dal Viminale in genere vengono aggiudicate con ribasso medio del 30% sulla base d'asta, così scrive Repubblica. Vabbè, approfondiremo. Come invece c'è da approfondire, non sono belle notizie per gli italiani quelle della manovra. Il titolo di Avvenire oggi è il più efficace di prima pagina: la stabilità è scritta, le famiglie soffrono. E il dato di fatto è questo, certificato. La manovra ancora una volta certifica, intanto, come scrive il Sole 24 Ore a pagina 3, che c'è la fiducia in arrivo e spese a pioggia, ma soprattutto questa vicenda del cuneo fiscale che già ieri veniva raccontata dal Sole e che oggi viene approfondita da Claudio Tucci nel titolo "Così è stato smontato il fondo cuneo" a pagina 2, fa capire che dagli annunci forti, molto forti, all'inizio si è passati a versioni sempre più snelle, puntando a discrezionalità, platea allargata, altre priorità. Insomma, la situazione, come racconta anche il Corriere con Antonella Baccaro a pagina 5, vede una persona soprattutto in difficoltà, una persona che abbiamo chiamato dall'America, Carlo Cottarelli, commissario della Spending Review, terzo commissario della Spending Review. Il titolo dell'articolo del Corriere è efficace: tagli alla spesa per fare cosa? La delusione di Cottarelli, i timori del commissario alla Spending Review dopo le modifiche al cuneo fiscale sono che si taglia e si recupera soldi alla Spending Review, ma per fare che cosa? Per coprire altre spese. Insomma, Cottarelli si è assunto l'impopolare veste del signor no e sta facendo un compito troppo gravoso se poi i tagli della spesa corrente finiscono per finanziare altra spesa corrente. Cottarelli, scrive ancora il Corriere, lega la Spending Review al taglio delle tasse, ma la sensazione è che il governo abbia altri obiettivi. Anche per Libero il titolo è questo: l'ultimo bluff, tagliati i tagli al cuneo. Mauro Meazza del Sole 24 Ore, questo è il menù, l'antipasto se vogliamo, molto allegro. Buongiorno Alessandro, sì. Sì, è così, come dicevamo, non so se fosse l'altra mattina, questa cosa del taglio al cuneo è diventata la norma del sì però, cioè sì tagliamo però prima facciamo altre cose, quindi insomma questa restituzione di soldi poi in busta paga, che era quello che voleva dire il taglio al cuneo, risorse per i lavoratori, per le imprese, Lo facciamo, sì, però prima ci sono delle altre urgenze e quindi, ad esempio, hai visto che poi ci sono questi stanziamenti, come riferiamo a pagina 2, le bucce di limone e altre spesucce che si sono infilate qua e là. Questo succede sempre, almeno ogni anno in questa, nella manovra, e anche quest'anno non si è esenti, ahi no. Guarda, vorrei fornirti degli altri argomenti. Oggi sul Sole abbiamo anche un'anticipazione importante. Non so quanti se lo ricordano, ma dal 1° di gennaio ci sarebbe una norma che dice che si può pagare con il bancomat praticamente ovunque. Però mancava, indovina un po', il decreto attuativo. Il mitico decreto attuativo, sì, che è sempre un po' una situazione becchettiana, no? Che non, arriva, poi non si sa se arriva. Arriva, l'hanno preparato, allora, soglia minima 30 euro, cioè da sopra i 30 euro, per chi però fa un fatturato sopra i 200.000. Adesso arriverà questo decreto attuativo, vedremo cosa sarà della data del 1° gennaio. A me sembra un po' vicina, però poi vi sapremo dire nei prossimi giorni sul Sole 24, una norma che è molto contestata dai professionisti e non solo dai professionisti. E poi ti volevo dire, ci sono le bozze del modello unico, anche società di capitali. Non so se la notizia ti emoziona, però ti assicuro che per chi si occupa delle questioni fiscali invece è una notizia importante. Brividi di emozione non ne dà, però insomma non è le classiche detto, però, notizie di servizio importanti. No, io l'ho letto con una certa attenzione, insomma adesso emozione non lo so, però attenzione sì. E poi è bellissima la storia di un'azienda che in un anno è riuscita a costruire uno stabilimento, ha parlato con un solo funzionario statale, ha fatto tutto, tempi di approvazione, permessi eccetera ridotti a pochi giorni. È una storia meravigliosa, però è successo nel Tennessee. L'azienda però era italiana e aspetta da 10 anni una variante al piano regolatore. In Italia, questo immagino. In Italia, sì. Non in Tennessee. No, in Tennessee ha fatto tutto in un anno. Il governatore del Tennessee ha chiamato l'imprenditore, ma lo racconta benissimo Ilaria Vesentini, inutile te lo dica io, delle pagine di Imprese e Territori. Il governatore ha chiamato al telefono e ha detto: bene, venga, io le do un funzionario, e il funzionario ha fatto tutto a tempi record, dello stabilimento c'è pronto. Ma qui succede nei paesi dove si vogliono fare le cose, dove non si mettono i bastoni tra le ruote, no, con la burocrazia. Effettivamente è una storiella che in qualche modo sotto Natale magari non è tanto edificante, però c'è anche però questo e noi lo raccontiamo come sempre. Caro Mauro, io nel ringraziarti vado a snocciolare l'elenco che tu hai già preannunciato, e a pagina 2 del Sole c'è ed è spuntato appunto come micro interventi in legge di stabilità. Questi spuntano sempre di notte, no? Negli emendamenti dove poi l'attenzione è bassa. 2 milioni per l'Istituto Italiano Studi Filosofici, 200.000 euro per il progetto di fattibilità per il ponte sullo stretto. Come il ponte sullo stretto di Messina, vabbè. Poi 2 milioni per la lavorazione delle scorze di agrumi, 500.000 euro per le riserve naturali di Grotta di Ripalta, Torre Claderi, Calderina e Capo Milazzo, 5 milioni per distribuzione derrate alimentari, 300.000 euro all'Orchestra I Virtuosi Italiani di Verona e così via, 1 milione al Teatro San Carlo di Napoli. E vabbè, altri milioni, milioncini qua, milioncini là, ce n'è un po' per tutti. Mauro, ci troviamo domani, il traffico, rientriamo. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, la politica regala che cosa? Ieri Renzi e Alfano hanno presentato il libro di Bruno Vespa, hanno dato vita a 2 ore di faccia a faccia sui grandi temi, la riforma elettorale, insomma è tutto politica e politichese, ci sono retroscena i soliti sui quotidiani, secondo Repubblica con Goffredo De Marchis a pagina 11, Renzi vuole dare un'accelerata alla questione della riforma elettorale. Io lo dico ormai, insomma, con un tono, vedete già la pesantezza mi si accumula in testa. In corso, ricordo, la 33esima settimana decisiva per la riforma elettorale, ma racconta Repubblica, ho una sola ossessione: tenere fede al mio impegno sui tempi, per questo devo capire chi sta facendo meglio melina e chi no. Insomma, vuole accelerare sulla riforma elettorale, mentre dall'altra parte Berlusconi è certo si voterà il 25 maggio, dice ai suoi, con le europee. C'è l'altro dibattito che sta prendendo piede ed è la questione dell'articolo 18, no? Sono bastate le anticipazioni del piano che vuole presentare Renzi, che per la verità adesso ha un po' rallentato, ne parleremo a gennaio. Comunque l'idea di dare un contratto a tempo indeterminato a tutti i giovani, ma senza tutela, giovani, insomma, chi prende il posto di lavoro, ma senza tutela dell'articolo 18. E Elsa Fornero, intervistata da Diodato Pirone sul Messaggero a pagina 6, torna a parlare di questa vicenda. Dice: sul lavoro non bisogna fare proclami, senza voler consigliare nessuno dico che serve l'innovazione unita al cacciavite. L'abolizione dell'articolo 18 non ha molto senso, dice per esempio l'ex ministro del lavoro. Inutile rinfocolare barricate ideologiche per la sua difesa o la sua abolizione, lo abbiamo riformato l'anno scorso in mezzo a enormi incomprensioni. Oggi impedisce solo, e giustamente, che le aziende licenzino persone per discriminazione, magari perché gay o iscritte a un sindacato. Io non ho messaggi da lanciare, dice Elsa Fornero. Dico che benvengano le novità, purché mirate e che facciano passi avanti. Ho ricevuto molte critiche per la complessità delle norme sull'apprendistato, ma tempo fa incontrai un meccanico titolare di un'officina che mi disse: guardi, ora per legge io devo dare un camice bianco a ogni ragazzo che assumo. È una norma assurda, ma non è scritta nella riforma votata in Parlamento, ma in qualche regolamento applicativo locale. Questo è il vero rischio che corre chi vuole riformare grandi disegni che non superano mille piccoli ostacoli. Così Elsa Fornero, che alla domanda finale del Messaggero, alla domanda se Renzi le chiedesse una mano, lei cosa risponderebbe? Ho già dato facendo la riforma. Vabbè, mentre invece che dire del flop, perché bisogna chiamarlo così, non ci sono altri temi, tutti i giornali lo descrivono, della manifestazione a Roma dei cosiddetti forconi, tutti a casa ma la piazza è vuota, titola Il Sole 24 Ore a pagina 12, il fallimento dei forconi a pagina 8 del Corriere, è finita, abbiamo perso, sono due pagine molto intense di Aldo Cazzullo, a pagina 8 e 9 del Corriere della Sera racconta passo passo la manifestazione di ieri, tra grandi proclami ma poche persone. Quasi fanno tenerezza, scrive Cazzullo, i forconi, compreso quello a volto coperto che provoca i poliziotti. Io sono pronto a farmi arrestare, tutti contro il Parlamento. E gli agenti, dai su, ora andate a casa, però lo consolano così. Calvani, il leader improvvisato, non improvvisato, scarica tutto sulle ferrovie, boicottati anche dai treni in ritardo. Mentre invece chi è impietoso è Antonio Pennacchi, lo scrittore intervistato da La Stampa, pagina 16, dice: io Danilo Calvani lo conosco abbastanza bene, non gli manca il carisma ma non ha i fondamentali, gli dissi quando lo incontrai qualche anno fa: se vuoi diventare un dirigente delle masse devi studiare, impadronirti della complessità, se no resti un arruffapopolo. Non mi ha ascoltato e infatti è rimasto un arruffapopolo. Ma è la domanda, questa è Grignetti, no? Lo intervista Francesco Grignetti. Pennacchi dice: ma vogliono sfasciare tutto, non è solo rabbia, vogliono dire al voto subito. Ma allora guarda un po', non è che sono le cose che esattamente vuole Berlusconi? Hanno gli stessi interessi. E allora Grignetti chiede: insomma, i forconi sono cripto berlusconiani? No, sono doppiamente coglioni. Così risponde Antonio Pennacchi. Io voglio rimanere sulla Stampa, però, perché la Stampa ha una notizia in prima pagina che farà molto discutere sulla questione della vicenda Stamina. Ricordate questa presunta cura con le cellule staminali per curare malattie molto molto gravi. Il titolo di prima pagina è: le carte che inchiodano Stamina. Sono carte finora segrete del NAS, pubblicate a pagina 2 e 3 della Stampa, le nuove ombre su Stamina, il metodo che non dovrebbe chiamarsi nemmeno così perché nelle infusioni non ci sono neppure cellule staminali. Paolo Russo, ecco il rapporto shock su Stamina. Un metodo che non dovrebbe nemmeno chiamarsi così. Di cellule staminali nelle misteriose infusioni ce ne sarebbero sì e no tracce. Nessun accenno a come le cellule mesenchimali del midollo si trasformerebbero in cellule cerebrali e tessuti nervosi. E perfino lo spettro di contaminazioni da morbo di mucca pazza. Questo è il rapporto finora top secret dei verbali del NAS e degli organismi scientifici istituzionali, oltre che il parere mai reso pubblico col quale il comitato di esperti ha poi giudicato non imparziale dal TAR del Lazio, ha bloccato la sperimentazione sul nascere. Tra l'altro Grazia Longo intervista invece un'altra famiglia, non è la prima, che comincia ora a dire da Vannoni, il professore che ha messo appunto questo sistema. Da Vannoni siamo stati, diciamo, illusi, ci ha detto che nostra figlia avrebbe avuto dei miglioramenti, invece no, è come era prima, non è autosufficiente e abbiamo già speso 40.000 euro. Il titolo per la verità è più duro: ci ha truffato 40.000 euro, così la denuncia di un'altra famiglia. Vabbè, questa vicenda stamina davvero non si placa. Sono al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, c'è a tutte le feste, cioè io ieri ero un pochino giù, ho detto ma perché saranno queste feste così che ti mettono un po' giù, eccolo qua, è arrivato l'articolo sul Giorno che oggi stravince per il premio La Carta Costa con Enrico Fovanna, il Christmas Blues. Il Christmas Blues, che non è una musica, ma è quella mestizia, quell'essere cupi che ci coglie nelle vacanze. Attenti al Christmas Blues. Le feste amplificano le fragilità con tanto di intervista al tanto di psichiatra di turno, in questo caso lo psichiatra Claudio Mencacci, che parla è il Christmas Blues, la depressione legata alle feste, sotto i morsi della crisi che non accenna a finire, si fatica a recuperare un realistico ottimismo, uno spirito di rinascita che le festività vorrebbero consegnarci. Aumenta la depressione insieme ad altri disturbi, è la nostra preoccupazione che questo riduce le capacità e le possibilità di curarsi. Ma dai, affrontate le feste con un po' più di ottimismo e sempre con il solito mantra, amici del Quotidiano Nazionale o Giorno, che dir si voglia: la carta costa. Christmas Blues, sì o no, che ci sia oppure no. Rientriamo con il ministro Cécile Kyenge dopo il giornale radio.